di Sharang. Però quando andavi a puntare in Villa Rosa non si puzzava, va a far nato. Infatti, fastidioso, molto fastidioso, e adesso mi sembra che un po' col mare un po' agitato, però poi ti ha il colpo, ti sposta, è un casino. Giuseppe? Sì, Gianni. Ehi, e niente, stazionario è sempre a 1.5, ascolta, dammi il controllo radio. Allora, se mi giudare sicuro che mi giudate bene, l'hai mandato a fondo scala e poi hai mosso col tastino, eccetera, eccetera, o l'hai lasciato com'era? No, ho regolato sulle 7 Gianni e poi sono andato col tastino e mi da 1.5. Fondo scala l'hai mandato? K, dopodiché l'ho sistemato con la rotellina sul 7. Ora è da vedere, 7 le dà, nei canali bassi, nei canali alti, prova. No, adesso vado in FM. Va bene, prova, come ne fai sapere. C'è la bolla da regolare, non è niente. La sua è grande per riabbassare. Addirittura in FM va 1.6. Sì, grazie. Allora hai toccato la molla come lei abbassassa. Ma guarda, non lo so. Ascolta, ma di regola per abbassarle cosa bisognerebbe fare? Allungare o restringere? Aspetta, ti dico tutto quanto. Un attimino solo che mi sta chiamando mia moglie. Ti dico tutto. Allora, Giuseppe. Avanti. Allora, mettilo sul canale 1 e guardare canale. Canale 1? Sì. Gianni? Quanto ci vuole? Ci vuole? È quasi 2.5. Quindi sono più basse, se sono più basse dei canali alti. Mettile su 40. K. Gianni? Ehi, andiamo dai 2.3 ai 2.4. Quindi è più alto su 40. K. Allora, deve essere abbassata allora. Se le stazionali sono solo sui canali alti, deve essere abbassata la fascetta. Se invece è il contrario, deve essere alzata. Capito? Ok, adesso facciamo un tentativo, proviamo ad abbassare, dai. Hai copiato già? K, se i canali alti sono più alti, ho capito come devi fare. Deve essere alzata, ok. Se mi porto oggi l'ultimato, devo stazionare, per non smettere il fosso superiore sui canali bassi, la fascetta di regolazione deve essere abbassata. E naturalmente se le stazionare fossero superiore sui canali alti, deve essere alzata. Gianni, abbassati un po' l'eco, non ho capito niente. Riepilogando. Se le onde stazionarie fossero superiori sul canale bassi, la fascetta di regolazione deve essere abbassata. E naturalmente se le stazionarie fossero superiori sui canali alti, deve essere alzata. In questo caso tu c'è superiore dei canali alti, deve essere alzata la fascetta. K, dai, adesso vediamo un pochino, stacco 10 minuti. K. Grazie Gianni. Niente. Giuseppe. Pausa. Sì. Mi dica. No, non la sento. Aspetti che salgo. Oh, buonasera signor Marchetto. Come la sa, va? La sa, va bene, un attimo, mi suona il campanello, un attimo, K e K di Roger. dica. Ehi, no, non è più cara, la casina. Va bene. Ciao, ma si canta un panino comunque, eh? Ah, se l'ha mangiato il panino. Cava. Ciao, va bene. Salutami Antonio. Cosa puoi ripetere che mi ha distratto qua? Salutare Antonio. Cava, ti ha sentito salutare anche la parte la sua. Va bene. Accettami Danilo. Era banale sul 21, chiamavo e non mi rispondeva nessuno. Sono passato al 5, però gli effetti era 45. Dopo mi sono pensato che ne parla, Per fare questi giorni te la sto facendo, un po' troppo, che ne so io. Perché non sai quando succede, per quando accetto e non controllo, capito? Infatti mi sono dimenticato anche di guardare le stazionali, sai? Ecco qua. Perfetto. Va bene, che fa? C'è Giuseppe, c'ha un problemino. Mannaggia, sono fatto l'antenna, ma mi sa che... Cioè? Lo so, quanto ho capito, stiamo uscendo tanto bene. Come mai? Non saprei. Quando passa il canale alto, dice, si alza le stazionali, dice, vanno a 1.6, Quando vanno i canali alti, si alza una semplice della vega canale, però. Infatti, quello non ho capito la verità, La verità, quello non l'ho capito. Bisogna vedere con l'ospetro se dice la verità. Infatti, anche quello è vero. Ma capa e capa di voce. Bisogna via perché sapendo non è che deve dare più stazionari, Bisogna vedere. Infatti, sarà tutto da vedere. Sarà tutto da vedere che fa capa di rogero. Ti ho sollevato perché là. Penso proprio di sì che l'ha sollevata, dice che c'era già il neo più stamattina, sono state alle 9, non so fino a che ora, sollevando l'antenna, Non so se si fa sentire, se volevo misurare con Dio, Infatti ci vorrebbe qualche strumentino più serio, dai, per controllare le stazionali, perché purtroppo non sono tutti uguali gli strumentini, Dovrei andare a uno più preciso e controllare le cose stazionali. Campa di Roger, fino a che ora c'era chiuso adesso? Ma lo saprei, no, perché la verità si dica, io ho staccato un attimo, lui stava facendo delle prove, poi è entrato, c'era già nella più ruga, gli stava, non so, controllando un po' il tutto, non lo so, provo a fare le chiamate se ci sono. Ah sì, Giuseppe è tornato, se ci sei tornato, cambia. Mano e tornerò a ci sei, cambia. Gianni, non più ru. Negativo. Va bene, mio pa. Dai, che io faccio un po' di fianco, che mi fa una doccia. Perché ho trabarcato stamattina pure e tutte cose. Dai, va bene così. Ce la riascoltiamo più dopo, se cucine. Ciao, buona carica, buon tutto. Saluto mio Antonio Popolo. Ciao. Asco, una cosa ti volevo chiedere. Dimmi. Chiudi di acciaio, però chiudi. Lunghi 10 centimetri, si trovano. Penso di sì. Pensi o ci sono, non ti è mai capitato? Sì, le dovresti trovare comunque. Le dovresti trovare. Cazzo, riguardate un paio di ferramenta, qua la salsa non si trovano. Dove posso andare? Prova lì via Oriani, dove c'era la vecchia finale. piazza lì, scendendo, poi c'è quel deposito di materiale edile, vieni lì, senz'altro ce l'avranno, Deposito di materiale edile, dove? Allora, ti ricordo che c'è la vecchia finanza? Via Oriani, scendi, che hanno aperto con la Sisa, Copec, cosa sia. Ah, ho capito, tesoro. Bravo, bravo. Vai da lui e chiedi, senz'altro loro se li hanno e te li danno. Cappa, cappa, vediamo per quello però, lo metti perché oggi non apre. Noi ci arrivano oggi. Non mi scendevo da Bricco, vedete? Prova lì, se li trovi da Bricco, ma sarà un po' difficilotto. Comunque prova a chiedere, ma magari niente di strano, anche in quello che hanno aperto nuovo, niente di strano che ce l'abbiano loro. Cappa, chiederò lì dopo, quando esco, e ci faccio un salto e vediamo se li trovo. Se ho pazienza. Cava, cava, cappa e cappa. Va bene, ci riascoltiamo. Ehi, ciao, buona carica, beh, anche alle prossime, ciao ciao. Ciao ragazzi, ciao ciao. Qui, ho tirato sull'antenna, mi dà 1,5, sia sull'1 che sul 40. Come ti dà 1,5? E 1,5, ho portato il 7 tutto in fondo e niente, soltanto che adesso c'è il tipo lì sul tetto, io che sto salendo e scendendo e non riusciamo a cavarmi i piedi. No, aspetta, aspetta, avete tirato sull'antenna, il cavo è rimasto lo stesso. Cappa? E metti da 1,5 di stazionaria. Sì, Pierpa. Non dirmi che voi. Quanto avete sollevata? Ehi, guarda, almeno aspetta un attimo che te lo dico subito. Dammi la misura esatta, all'incirca. Giuseppe. Quarantena aspettarato, Giuseppe. Pierpaolo? Intorno ai 2,20. Intorno ai 2,20? Asco, aspetta un attimo. Giuseppe? Sì, un attimo che ho gente sul tetto, un secondo solo. Asco, dimmi, dall'1 al 20 in stazione quante sono? Cappa, adesso vado sull'1 e te le do. Pierpa? Dimmi. 1,5. Sull'1? K. E sul 20? Pierpa? Dimmi. Identiche. E identiche anche a fine, 40. Aspetta, controllo sul 40 adesso. Pierpaolo? Dimmi. K di positivo, 1,5 anche sul 40. 1,5 sul 40. Bisogna cambiare di impedenza. Sarebbe? Sarebbe che... chi c'è lì? Chi c'è con te lì? Io adesso sono da solo, c'è l'altro tipo sul tetto, ma ci sarei voluto essere anch'io su per vedere cosa si può fare, perché adesso la molla è molto in alto. Ma avete toccato la molla? Negativo. è sempre lo stesso punto, sì. K. Lascia tutto così, vengo io, vai. K, ti aspetto, Pierpa. Allora non lo faccio scendere dal tetto. No, no, sei tutto a posto sul tetto, lascialo stare. Lascia tutto così, non toccare niente. Per adesso, fallo scendere se vuole scendere, non ho detto di passare lì. Il tempo di prepararmi, arrivo io, vai. K, grazie, Pierpa. Adesso glielo dico di scendere. Pierpa, ci sei sempre? Attento Pierpaolo. Pierpaolo, ci sei sempre? Pierpa? Pierpaolo, Vela, ci sei sempre? Aspetta un attimo, mi sto scendendo. Chi sei, Antonio? Ciao Parroni, aspetta un attimo, devo attaccare una cosa. Era giusto per chiedervi se avevo un PL, perché quello che ho qui io mi ha presentato un difetto, Anto. Ma gaffa, gaffa, c'è dove mi avere, dai. Gaffa di positivo. Ma marito, compreso, okay. lei stava tirato da trabacco lo stesso, un lavoretto privato. E dottor Roger, che cosa vuoi dirti? Ho lavorato anche stamattina. Positivo, un lavoretto privato però è non impresa, fuori dall'impresa. Cappa. Perché di solito arrivano il venerdì e non lavorano più. Ehi, cappa di Roger. Ma quando c'è da beccare bisogna beccare a tu, anche sabato se è possibile anche la domenica mattina. Infatti, Roger, a tutto Roger. E dove sei in movimento? Siamo qua in movimento, dai. Fra un pochettino ci fermiamo, cambio. Eia, da Giussi stai andando? Eia, da Giussi Ferreri. Positivo, mettete a posto le cose che non se ne capisce più nulla lì, Ehi, agappa, ci siamo anche cosa lì di qualcosa. Vai, vediamo un po'. Cappa Rogero, mettetegli a posto. Va bene, Antonio, va bene così, dai. Poi fate le profine, se sono qui già vi rispondo. Ehi, agappa, dai. Ada benemita, siamo qui che con la forchetta ci beviamo il rossino. Cappa, forse dai, qua con Palmera ce lo risentiamo, cambio. Eia, ricevuta Roger a 101%, cambio. E comunque, o a tu, ma dovete fare prove, sono a casa e fate le prove, già vi rispondo. Cappa, forse dai, ce lo risentiamo, cambio. Eia, ciao ciao. Salutami a Giussi, Giuseppe. Natali, ça va bien, très bien, tout à posto, Bravo Natalino. Ah, confuso mi sono allora, mannaggia quel rosso, cavolo. Se no ti fanno la testa, guarda il riposo, Franca, ci sentiamo più tardi, ciao. Eia, ciao Luca, a dopo se coincide, ciao ciao. Grazie, ciao. Ciao, doppio Ru. Chi è, avanti? buonasera. Ti ho salutato, ma tu mi devi riconoscere la voce a me già. E buonasera Luigi, no, ma io avevo girato il canale perché non rispondeva nessuno, quindi come ho rigirato io ti ho sentito parlare. Ciao Gigino Vulcano, capra. È positivo, dai. No, stavo provando un apparatino, dai. Dei miei, di quelli piccolini però. Il mini 48. Il mini ala 48. Come ti sei arrivato? Il mini ala 48, così, nuova versione. Cos'è questo? L'ala? Aspetta, te lo dico che cos'è. È precisa, il 48 è leggermente più piccolo. Io non lo conosco, ma è vecchia era. È positivo e vanno alla grande pure. Ma senti, da Giuseppe che stamattina abbiamo allungato il palo di Giuseppe, però dice che sta andando stazionario. Un ala 44, hai capito? Il fratellino, È positivo. Ho fatto qualche lavoro da albino, quello di Borone. Sente bene. È positivo, sì, così sono 10 watt, così sono 4 watt. Ce lo fa bene. Quella modulazione è quello che conta, la modulazione è perfetta, è buona. Sì, questi sono 4 watt. No, la radio già fa perfetta, capito? E poi mi ha fatto anche un lavoretto. La radio? A parte la radio, ma ne ha fatto un altro. Chiaro. Ma perché che non te l'hai messo? Che cosa? Il checco non te l'hai messo, la scheda. Questa no. Questa c'è bene, ce l'aveva Bobone, mi pare se l'ha venduto. Ce l'aveva, quello c'era Bobone, se dopo il trattore usciva, è lo stesso, il gemello, Un po' riusciva bene, ragazzi. Infatti pensavo che se si useranno il manuale. Chi? Bobone, io. Bobone, la ragione. No. 44, vedi che secondo me lo senti propagazione, quello forte col 40. L'hai mai sentito 44 speccia? Quando in propagazione con quell'eco che gira e vuole ricottero, l'hai sentito qualche volta 44 spiccia, propagazione? Sì, è un operativo che ho già sentito questo. È molto con 44 di questi qua, modificato. Vanno bene. E che colore è giù, Gigi, come l'ala? Poi il frontalino, il pomello è preciso all'ala, il colore è lo stesso, identico colore. C'ha quanti pomelli, c'ha qualche pomello in meno però questo, capito? C'ha solamente lo squerci e il coso delle. Dove c'è lo squerci fa lo scatto e fa il PA, capito? Capito. C'ha le femme e più albino me ne ha messo un altro, ha fatto il foro, gliel'ha fatto affondato allo stesso modo e me ne ha messo un altro di tantino a fianco. E a cosa serve questo? Serve per fare questa differenza, mi guarda, adesso guardati il segnale, tu lo vedi il segnale adesso? Aspetta, mi sto guardando adesso. Dai, guarda il segnale, lo vedi? Sì. E che segnale è? Il 15. Il 15, e così quanto è? Guarda così a vedere. È 9,25. Con questo tastino serve per quel motivo lì. K, per aumentare il segnale. Così si diventa eventuale lineare, capito? E l'altra maniera è libero. Ho capito. Già va bene. Andare, vorrei sentire Giuseppe. Giuseppe, ci sei? Sarà demoralizzato. Ha detto che ci buttava tutto se non andava bene. Riprendevamo e si cava tutto. Capo, sai, guarda bene quanti vatti sono. Allora, sono 2 watt e 4 watt modulati. K. Va bene. Ma la modulazione è quella che conta, è quella ambrosa. Sì, ma è fatta apposta così, vedi, già 2 watt e picchi sono arrivano a 4. E con questo tu puoi, se vuoi metterci un eventuale lineare, lo porta una meraviglia senza saturare, è una bellezza, non lo fa neanche scaldare. bene, è bravo questo qua, modificando apparato. È bravo a fare questi lavoretti, con la scheda ecco non le fa quello tipo Giancarlo, non mi piace, però fare questi lavoretti te li fa silenziosi, ti mette i fili schermati dentro, no è bravino dai fare questi, l'avevo visto, l'ha fatto a coso a quello di Luca il 48, il 48 come il tuo, vedi? Quello lì c'è abbastanza fortino, quello c'è 18 watt e arriva quell'affare lì, quel 48 come il suo, da proprio 18 watt. Ma come quello di Six sta dicendo, o l'altro, quello tipo vecchio? Oh no, il nuovo BK, BKX, come cazzo che si chiama? BSX, è quello lì. Intanto si è verificato che quell'apparato lì non mi dia colpi, lo sai, confronta l'altro alla 48 e colpi non li piglia, e non piglia manco splatter e cose, niente, e solo in vicinanza, proprio quando si è vicino si sente un pochino, ma se no l'altro proprio mi creava il mutismo generale. Invece questo qui va bene, non prende colpi. Positivo, ma si è fatto bene, se facciamo dei 48 di quelli tipo vecchi, fatti sul continente, fatti bene, non li prendono neanche quelli di colpi. E dipende da chi lo fai, come è fatto la parata. Ma può essere che nasca, perché tu prendi l'8001 e colpi non ne prende l'8001, capito? Tu prendi il 985 e cosa? Come si chiama? Il Magno 985 è positivo, ho visto il Magno, quello che ha fatto a Palmerio, ho visto che dentro, perché c'erano già, mi sembra, che c'era già qualcosa di ferrite, qualche rotella piccolina, però ho visto che gliel'ha messo una grossa dentro all'interno del palazzo, e i fili che dell'alimentazione dove entra il pinotto dietro, della corrente, che poi vanno a fissare nella piastra dentro del baracchino, no? I fili non salgono al coso della corrente. Ecco, quelli gliel'ha messi più lunghi ma grossi, però grossi e gli ha attorcigliati tutti insieme a questa ruota grande di ferrite, capito? Sia la corrente che l'amata all'interno del baracchino, gliel'ha tutti attorcigliati all'interno, un filo tipo rame notti vecchio, quello unico, il rame unico mi gliel'ha messo, e gliel'ha tutto sia il rosso che il nero, gliel'ha messo più grosso e risaldato, e ha avvolto tutto in questa ruota di ferrite, capito? Nel Magno. È un filo scarmato, gli ha messo sicuramente, un filo scarmato per non ricevere disturbi. Mi sembra che il Magno ce l'ha già due rotelle dentro di ferrite piccoline, perché l'8001 già la casa ce le ha già così, ne ha due, l'8001 credo, quello mio ce le aveva. L'8000, se poi gliel'hanno messo lì quando hanno fatto la modifica sua a Cosua, come si chiama, a Napoli, da Danubio, non lo so, se in origine, io non l'ho visto uno originale, se ci sono quelle, comunque il mio c'ha due rotelline ferrite, uno nella mazza e uno all'interno del baracchino, e sono messe col coso, come si chiama, col silicone, attaccati, appoggiati col silicone. Non so se in origine c'erano, questo non te lo so dire. Non ho mai visto un Magno aperto, Gigi. Quello che ho venduto non l'ho mai aperto, mai toccato, mai fatto, quindi non so come sia dentro. So che è un buonissimo apparato, però non so come vada dentro. Sì, ma siccome io l'avevo aperto prima di mandarglielo, quello lì l'avevo aperto e l'avevo guardato, adesso io l'ho tolto tra le vite e l'ho guardato il coppietto, ho guardato il lavoro che ha fatto dentro, guardatomi. E ho notato che ci ha messo questi cavi grossi e questa ferrite, una ruota di ferrite, capito? Invece poi ho visto io quello Magno, il precedente che c'aveva, il modello primo vecchio, che già c'aveva già Palmerio, quello ce n'erano due grosse tesso dentro, uno nella mazza e uno l'ha messo già, che l'avevano modificati, non mi ricordo dove, quello lì, sui continenti, l'avevano modificato, che era di Giovanni non originale, ma un 5-6 anni fa questo è stato fatto, quel Magno lì, e quello stesso ne aveva due grosse di qualcosa di ferrite all'interno, messe. Ma Palmeo, quale c'ha di magno? Il S9 o l'S985? Aspetta un attimino che te lo dico pure, era il mio, quello mio, te lo faccio vedere, ce l'ho qua intanto, te lo dico subito. Qua nello Spinter c'è scritto, devi nello Spinter. Buonasera. Oh, ciao Mario, 4-4 stasera, buonasera. Buonasera a lei e al tuo vulcano. Io sto andando a vedere che tipo di modello io l'ha fatto in Palmini, stiamo parlando di un magno. Sta arrivando subito Gigino. E ancora niente, vabbè. E allora Maiolino, chi te mi conta, sa? Che cosa vuoi raccontare? Ti ho lavorato anche lui, aspetta un attimo, Gianni, che c'è qualcuno che sta chiamando da Cargeghe, avanti l'amico di Cargeghe. Ma io ti sento con le orecchie, gli altri non lo so se ti ascoltano con qualche altra cosa. Comunque sei molto piccolino, non so se gli altri ti ascoltano bene. Gianni, lo senti questo da Cargeghe? Ma vediamo un po', avanti l'amico di Cargeghe se mi stai ascoltando. Dove stai modulando? Io sono a Sassari, però ho difficoltà a ascoltarti, la verità, non sono in cuffia e quindi ti sento ma basso. Questo è Fabrizio, chi è Fabrizio o Cristian questo qua, Cargeghe, chi è Fabrizio, chiedilo Mario, comunque buonasera Mario, anche a te. Che sei da Cargeghe? Come? Papà. Sei Cristian? Vulcano, Cristian da Cargeghe. Ragazzi, no, io già l'ascolto, ciao Cristian, sperando che tu mi ascolti. No, io ti ascolto qua, per la mia postazione, dai. Diciamo che gliel'ho montato io quell'apparato nel furgone, sia lui che il fratello. Capito? Cristian, che caparroce, ma io già ti ascolto, forse Gianni che non ti ascolta a te, ma io ti ascolto qui a Zavala, forse più libero qua, non lo so. Ma te, nemmeno che esiste di Fragadrea, so. Scusa qui, qua c'è scritto comunque quello che si può modificare, quello diciamo, perché c'è un altro modello che va male, qua c'è scritto solo Magno S9. Era il modello quello da 45 qua, poi c'è il 2985 che ne ha 75. Allora, questo è quello da 45, ti dico la verità, io l'ho controllato ed è 45 di portante bianca quando era normale e arrivava a 47, faceva picchi di 47 modulati là, quando ce l'avevo io qua. Andava bene, sì, allora come quello che ho venduto, come quello che ho venduto io, Giuseppe. Prego. Avanti, prego. Buonasera. Asero, con chi abbiamo l'onore di parlare? Contore Mitraglia. Poi Capri 2, la dottore Mitraglia non ha giù un peso da lei. Avanti, dove Mitraglia, dopo facciamo girare per... Anzi, no, aspetta che facciamo girare per i saluti a Capri 2 e poi ti facciamo entrare. Avanti, Mario. Gianni, stanno parlando, sta rispondendo a un altro Capri 2, capito? Non ho compiato Capri 2, dimmi. Allora, Gianni, tu non lo ascolti. Ma Capri 2 stava parlando con l'amico di Cargeghe, con Cristian, e niente, tu l'hai tutti cazzo, non se ne è compreso una mazza. Allora, intanto mi approfitto per salutare a Capri 2 e a Torre Mitraglia, e vi lanciamo a K2 perché stanno chiacchierando con Cargelli, ma tu l'hai chiesto i gatti. Avanti K2. Grazie. Cristian, io già ci sì, ma non dobbiamo, cosa vuoi fare? Lavore per Baracchino, Cristian. C'è a Farrugia, dai, c'è anche Mario, Mario l'ascolti a Mario da Sassari. E Mario, vedere se ti ascolta Mario Manser, vai tu per Cristian. Cazzo, il primo che ha parlato con me, allora sono io che te l'ho detto che c'era questo da Calzeghe, e allora non mi dai di Cristian, se non che anche mi ti pongo lì di Arecci. Beh Mario, ti ha risposto. Ma io in questo momento non sento nessuno, c'è un motorino sotto casa che sta dando un po' di scarichi elettrici e non l'ho coperto. Ma Parroggio, dai, aspetta, riprendo io, dai, così saluto a Cristia, a Gianni Capire, perché qua fra un po' apre il negozio, e allora io non posso più modulare, potrei abbassare solamente quel con un apparato mezzo modificato a pochi watt, però mi ascoltano solo a malapena Gianni W e Mario qua. Andà bene, Cristian, dai, fatti buon proseguo dalla serata e buon tutto. Ciao anche a Gianni Capri 2. Riprendi già, che io devo chiudere perché sta aprendo il negozio qua, Gianni. Riprendi tu, Gianni Capri 2. Ciao anche a te Gigino e buona serata, ci sentiamo più tardi, avanti fa il c***o. Ciao Gigino, avanti Mario per i saluti. Riprendi Gianni Capri 2, stavi dicendo. Io ciò che devo comprare l'ho comprata, ma basta. L'unica cosa che mi sono comprato è l'alimentatore da 55 ampere, che quello lì va bene per tutto. Va bene per attaccare quattro cose insieme, poi c'è un alimentatore unico e via di lì. Mario, riprendo. Ma la pompugna non è che tutti i giorni lanciano, ogni tanto può capitare qualcosa, ma non è tutti i giorni fessano. E tu invece quando è che la piazza lancia lì nel tuo cotiaco in quel garage, capri due? Giuseppe ha già fatto tutto, Sì, perché era alzata un bel po' l'antenna, ma restando un po' di stazionare qui dovevano registrarla, tutto rito lì. Poi una volta registrata già entra. Comunque come radio ci va perfetto, solo che mi dice che c'era un E4 di stazionare, gli ho detto come regolarla, adesso lo fa. Non lo so, perché ho dormito dopo pranzo, ero tutta la mattina lì e dopo pranzo ero un po' stanco, mi sono addormentata. Non lo so già, non te lo so dire, stamattina ce l'ho io. Thank you. di bianco. K. Comunque Mario deve essere grande lì, perché fra poco la moglie pure a K2 ci sbaraccia. Telefonate e me la portano sino a casa, non è dolore il problema, no? è che io esco poco perché esco poco, poco per la stanchezza del lavoro, poco per una cosa, un po' per l'altra. Non è che sono tutte le sere in giro io, no? Io faccio casa lavoro, lavoro casa. Sì, anch'io. Io so che sono il figlio, immagini, no? No. Faccio finta così anche io, non è che sia tutte le sere in giro, esco il sabato qualche volta, ma non è che sia tutte le sere, almeno. Gatto, no, anche io qualche volta, l'altra volta siete venuti lì in Piazza dei Segni e sono venuto, solo che lì in Piazza dei Segni puoi stare solo a chiacchierare, non si va a pigliarsi un caffè, non si va a pigliarsi una bibita, una cosa, capito? E niente, però anche io, cioè, di tanto in tanto se mi capita. Prima Natalino veniva, andavamo a mangiarci la pizza, fare qualcosa. Allora Natalino, come te, sei un periodo che è un bel ritirato. Vabbè. E sai cos'è che non sta lavorando, magari. Tante volte quando non lavori ci devi anche pensare prima di spendere i soldi e cose. Scappa, gappa, ma... Già non è tutto così terra terra, là, già le sappiamo le cose, già, non è che non le sappiamo, giustamente quando uno sta lavorando c'è qualche spicciolo in più da potersi divertire, invece di quell'altra maniera è tutto contatto. Diciamo che quando uno lavora già, deve stare attento a come spende, tutto lì. Cava cava, arrivarci di tutto a Falchetto se c'è, avanti Falchetto, e ripreso. Capri 2. Non è sentito, si lavora solo venerdì e sabato, poi gli altri giorni vengono, vanno due persone a cenare e cose. C'è qualcuno in più, ma nei paesi è più monottono, più nei posti di mare, nei posti di mare si riempiono le pizzerie, tipo Pollottone, se tu vai d'estate, se non prenoti non ti mangi pizza. Io la sera quando torno dal lavoro mi fermo sotto casa 5 minuti per fumarmi una sigaretta e poi me ne ritorno, non è che vado in giro. Il sabato vado, il sabato sì, qualche volta, ma nemmeno sempre. Se la famiglia vuole andare da qualche parte vado con la famiglia, e priorità c'è la famiglia sempre. Prima la famiglia, poi di tanto in tanto con gli amici, ma già li vedi, è tranquillo perché c'è il suo lavoro, c'è il suo coso, ed è più tranquillo perché meno male lo stipendio arriva fisso. Però per esempio Natalino lo stipendio non è che ce la fissano. Natalino quando c'è lavoro lavora, quando no sta a spasso. E le spese ce le ha sempre perché lui fuma, a lui gli piace girare, controllare, vedere. E niente, cioè c'è chi più e c'è chi meno. Però nella vita noi ci accontentiamo e facciamo in base a quello che ci entra. Tanti che fanno le gite queste cose qua, lì Puma di Bini e cosa, se voi non c'è solo lui, no? Lui è uno dei pochi. Diciamo che ce ne sono quelli che fanno le gite alle scuole qua, adesso non mi ricordo come si chiamano, ma ha un bel Puma quello lì. Comunque, Caprelù, tu non disperare mai, quando ti vedi a carte tese, ricordati sempre di Mario Masse, lui è sempre disponibile col camion. Thank you. ce l'ha già, mi sembra, 3 settimane. Se a domani non mi fa sapere, vado io a casa sua, lo chiamo, ma non lo faccio scendere. Cioè, io problemi non ne ho. Non è che me li metto per un baracchino i problemi, no? Arretrate, basta andare su internet e trovi tutto quello che ti serve. Se un tecnico specializzato va a entrare in internet e competenze che ti serve. Adesso non sei col Galaxy? Sì, sono con il Galaxy. che c'hai? Vai benissimo, vai alla grande, bello, amplificato al punto giusto e c'hai un'ottima modulazione. Non lo so, se purtroppo per me il cane si deve morire così. Con questo microfono, che non è tutto, tutti che fanno molto bene, che è chiaro, limpido, forte. Va bene, vuol dire che sia delta me lo sogno, o me lo metterò in qualche altro apparato, magari si adegua meglio. Ah, K di positivo, perché ogni cosa, cioè tu c'hai una timbrica di voce che non è come la mia, io adesso figuratimi, ho la testa del volto verso gli altri apparati e il microfono praticamente ce l'ho dietro, eppure mi ascoltate tutti bene, e se mi metto vicino di fronte così cambia tutto. No, è uguale, ti dico che la tua voce è possente anche da lontano, ma non tutti possono avere la stessa voce, che se non possono operare a nugola per riuscire bene al microfono. E purtroppo la mia è questa, e questa utilizzo. Magari cantando risulta migliore, perché è più chiara come voce. Capri positivo. Riprendi Capri. Va anche bene, non c'è problema. E diciamo che è un bel microfono, molto bello. Nuovo, perché non c'è un graffietto, niente. Ehi, l'ha comprato nuovo Fabio. E poi, siccome gli hanno promesso un TAR, c'è proprio quello e se lo c'ha, e quello nel TAR. Che non si adattava, allora l'ho tolto, ma diciamo che è un buon apparato. Magari si adatta la voce, tu c'è la voce grossa, così si dovrebbe adattare perché esce un po' fino come tonno. Lui ha voluto anche il baracchino, però deve cambiare uno strumento a quella sorella. Adesso non so se è quello di modulazione, lo strumentino che è andato, o se è quello della batteria che ti dice anche quando la batteria è scarica. Ma è mobile come quello lì, quello con frequenzimetro, è la barra mobile. L'ho avuto anch'io, KP2, lo conosco, l'ho avuto anch'io. E quello di, che avevo preso su internet, a Lucca addirittura era modificato, c'aveva la camera eco, usciva una bomba. Beh, c'aveva anche il microfono amplificato, quello di Lucca. Cioè, ho dato tutto per 40 euro, l'ho vinta io, l'asta, ho partecipato a questa, sta su eBay, e lo ho aggiudicato io. Motore di ricerca e mi Mobicom il modello e poi scrivi schema Mobicom Intec Mobicom eccetera eccetera e ti appare lo schema. Ok, dici che lo so solo per vedere quanto mi transito io, peccato ci puoi vedere un attimo per lettera. Tu prova, se non te l'ho dato da pagamento. Ci sono quelli che lo vendono anche, ti fai dire, paghi 20 euro e te lo mandano a casa. Non mi sono dedicato. grazie Melia. Buonasera, ben entrato in frequenza. E buon tutto. E niente, cosa voglio dirti? No, questo K2 è un disestilo, c'è un bel palazzo, uno non sa dell'altro non parla. Sono tutti sconquernati, però io gli ho detto, sono che ce ne vuole di stare, vado con lì e carico tutto, non me ne metto problemi. Va molto l'Arbus, dico la verità, tutti quelli che ho visto, l'Arbus è uno di quelli che mi è piaciuto di più. E tu mi dirai, c'era anche l'altro, quell'altro, cos'è, l'americano che mi ha fatto vedere, che anche quello era bello. Però l'Arbus mi ha colpito in una maniera sproporzionata. Ho detto, cavolo, io non l'ho mai visto questo apparato qua, questo Argus. Quando Mario lo nominava, io pensavo che fosse un apparecchietto così, poco conosciuto, perché la marca, la verità, non la conoscevo. Invece mi sono ricreduto. Ok, è un apparato. Speriamo che non metta tolto, quello, e che non sia male farne crisi, perché se io vado per aiutarlo, per farsi capito, per farlo come campione. Se no, e pensi che servono a Mario, gli dati li metti a Mario e ne recupera uno. E faccia così, io glielo lato, quando glielo lato può fare quello che vuole, però mi dispiace perché di non metterlo a posto, però anche quello di Mario vuole metterlo a posto, infatti glielo anche detto che sempre qualche pezzo lo prendi da lì. Riprendi Mario. Gianni, tu quando eri venuto a casa l'avevi visto l'Argus? Non me lo ricordo Mario. Sì, me li avevi fatti fare gli apparecchi, però non mi ricordo se l'Argus l'avevo visto. No, la verità è un apparecchio molto bello, a me mi piacerebbe averlo, la verità. Però è un apparecchio che io non conoscevo, io ne ho girato gli apparecchi, ecco, però non l'avevo mai visto. Quello lì è l'apparato che, diciamo, il primo apparato che ho comprato ed era di un CD che lo chiamavano cacciavite, poi non so se voi l'avete conosciuto in frequenza. Io sì che l'ho conosciuto, io già l'ho conosciuto a cacciavite. Anche io mi sa che era un attimo durato, cioè, ne ho modulato tanta di gente, figurati, adesso se mi ricordo stavo facendo memoria l'altra sera di quelli di Sassari, me ne sono saltati altri nominativi, chiedetemi alla faccia, riprendi un dose se vuoi modulare. Un attimo in bianco. Detto che fa ascolto, diciamo che ne hanno, sì, no, sono cose belle da avere, io diciamo ce li ho più presenti come apparati adesso, ma ne ho qualcuno anche negli anni 80, però tutti funzionanti. Quel portatile, Mario, tu già te lo ricordi, che siamo andati a pescare con quello lì, che ci aveva il portatile con l'antenna, te lo ricordi? Quello lì spara un bel, da Porto Torre si metteva questo antennino calamitato con la base magnetica e si alza tipo l'antenna delle radioline così. È tutto pieghevole, tutto, si mette tutto dentro una valigia. Altre cose, attacca all'artificio della macchina e va da Dio. C'è una modulazione e anche, come si dice, oltre alla modulazione, anche una ricezione molto forte. Il presuntivo, quello lì ce l'avevi quando siamo andati a pescare nel bandino. Era il periodo che ancora non avevo fatto le cose, gli impianti alla panda. Adesso già c'è tutto, c'è un impianto e alla grande ho fatto il buco nel tetto, gli ho messo l'antenna abbastanza lunga e va benissimo, va alla grande. Comunque anche oggi leggendo un libro di di frequenza decibel. C'era scritto che l'antenna più lunga è e più rende nella 27. Molti dicono, l'antenno piccolo va bene lo stesso. Va bene lo stesso perché si accontenta, ma non c'è dove ti fa quello che ti fa l'antenna grande. Beh, in campo di positivo, un antennino piccolino va bene per la città, diciamo così, là. Riesce a coprire bene o male, in città si ascoltano tutti anche con un antennino piccolo, però si è sempre reso brutto che se tu hai una buona antenna, c'hai una buona trasmissione e una buona ricezione, tutto lì. Perché io ne ho avuto una che non è tanto piccola, mi sembra che sia sui 60 cm, me l'aveva costruita Corso Adriano, che stavamo facendo una specie di esperimento e niente, ha pigliato una di quelle così che abbiamo messo per cavo rigido, fatta tutta la carica, il coso, e quella lì ti posso dire che mi ha dato delle sorprese, perché quando schiacciamo la portata per modulare si accendeva il pezzettino dello stilo che ci andava sopra, hai visto che c'era uno stilo dove potevi regolare le stazionarie, quello lì diventava incandescente, si accendeva tipo faro. E non si è mai sciolto. Parlo? Sì. Dimmi, capri due. Negativo, che mi ricordo io no, ma Fodacciano non l'ho mai sentito, Pegas, mi ricordo, Anonima, ti posso dire Idria, tante me ne ricordo, però non me lo ricordo questo. Barone giallo. Biancaneve me la ricordo, mi ricordo Luce del Mattino, me ne ricordo tanti, Lucchetto, Frigorifero, Zucchero, Sambuca, Limonero, insomma me ne ricordo un bel. E Barbarica, te lo ricordi a Mario Barbarica? Sì, Franco Barbarica sì che me lo ricordo. Thank you. sì, sì, sì, ma quello di bancari stai dicendo? No, non stai uscendo male, stai uscendo tutta strappa. Ho letto, se non ho premuto bene. Angelo Versino, cavolo, non lo conosci, è abitato vicino a te e non lo conosci, bubù. E in linea d'aria siete più o meno in linea. Ah, sì, sì, sì, ho capito, quello del monte che abita di fronte a Franco, eh. Ciappa. Si chiamava Gesuino di nome, si dà metterla. Sì, infatti il vero delfino è quello lì, quello lì. Gesuino, quello di bancari. Ma perché era piena, via. Io già ne ho conosciuto parecchi, perché io avevo 14 anni quando sono entrato in frequenza, non ti dico Giulli, tutti quelli del coso, del club CB, Radio Club Nord Sardegna, di Via Luzzatta, insomma ne ho conosciuto parecchi lì anche, di... Poi ho conosciuto molte ragazze lì al club, no, diciamo che prima già era un frequentato, poi le ragazze stesse ti davano l'appuntamento, ti conoscevi, molte volte ti trovavi gente mentre in piedi che non c'entrava né ci usciva, una volta sono andato con l'appuntamento con questa tipa, siamo andati in discoteca e mi sono ritrovato un altro CB, se vuoi già fare un marco e cose, mi ha arruinato tutto. E c'era la Grand Prix disegnata. Oh, se trovo già, la mamma c'è da qualche parte, se trovo c'è quella testa della mamma, in mezzo a cose, perché quando abbiamo traslocato alcune cose di quella roba lì non l'abbiamo buttata via, il capo di due mi è stato buttato l'apparecchio, quello che sa come cavolo, magari in qualche scatola, la rinfusa lì. Già il microfono mi è rimasto, perché il microfono c'era successo un casino al campo, ed era interrotto, ne volevo cambiare, ne avevo già smontato il coso, tutto quello che è il pugno, e poi è rimasto dentro un coso perché avevo comprato il 423, l'ho aggiunto lui, l'ho aggiunto domani, c'era la quartiera esterna, mi dà tutto questo canale poi. E niente, si vede che lui di quando siamo traslocati, avevo anche un ferioso, un sanio ferioso, è stato buttato anche quello, perché aveva dato la casa, l'aveva fatta nuova, di pacca e alcune cose vecchie non ce ne abbiamo. E sicuramente è stato buttato in mezzo. E l'unica cosa che rimane è il microfono, capito? Sì, ma era così, c'era la Grand Prix disegnata, c'è scritto Radio Club Nord Sardegna, Via Luzzatti numero 4, di fronte al circolo filatelico. Ma era nel vicolo, cioè dentro il portone, nel pianerottolo c'era il circolo filatelico, nello stesso piano. Radio Club Nord Sardegna rimaneva di rimpetto come salivi le scale. Invece il coso era il club dei francobolli, era di fronte, il circolo filatelico. Sì, io mi ricordo le pizzate, le cacce al tesoro che si facevano, le gite, le pizzate, tutte lì, tutti quanti insieme, mangiate di fainì, cazzo, giù che di accassi, boh, era bellissimo, Mario, tu non sei mai andato di vero, forse tu non c'eri in quel periodo. Ma io c'ero già in quel periodo, però non frequentavo nessuna associazione. Anche perché c'era uno che non potevo vedere, già te l'ho raccontato, quello di che abita dietro casa tua praticamente, quella specie di pupazzo. Capito, stesso. Ah, va bene, posso fare anche il nome, mi. E tanto sento se viene a curirmi, E vabbè, tempi passati, sono, non è che sia, sono tempi passati. Kappa. E frequentava molta gente lì, ma lì non l'avevo mai visto, la verità, non l'avevo mai vista lui. Io solitamente andavo tutte le sere lì, perché quando scendevo la piazza che accompagnavo le amiche, la ragazza e cose, scendevo lì. capisco. Scendevo lì, mi trattenevo un po', mi divertivo a cose e poi me ne andavo a casa. E poi mi arrivavano anche le QSL lì, perché io avevo il numero del bio box dell'associazione, andavo lì e me le dava giù le QSL mie. Ora te lo ricordi già, Martì Pescatore? Ehi, a voglia. Faceva il portiere d'albergo, lui mi sembra. Ah, quello che facesse non lo so, ma me lo ricordo. Ma di pescatore me lo ricordo. Ehi, ce n'erano tanti. Intrepido lo conoscevo proprio di coso. C'avevo il 128 celeste, con l'acqua là, con il volante invece che sulla sinistra. Normalmente, come sia, ce l'aveva sulla destra. Sì, poi alla tua parte c'era il fotografo Saturno e ci andava padre Francesco la sera lì. Saturno, padre Francesco, che diceva se vuoi la soluzione tira sto cordone. Yeah. picchi, devo preparare, devo avere il tempo. Ci sentiamo ragazzi, dai, ci sentiamo magari stasera se coincide, prima di andare a fare Balduria e poi magari domani, dai. Ci sentiamo, statemi tutti bene, buon continuo con il SEO, quello di per me, dai. Ciao, doppio giù. Se coincide aspettate, sono tutte le prossime e gappa gappa, e anche io mi sono stanco di stare in piedi perché purtroppo questi apparati sono messi tutti sui piani e devo stare in piedi per modulare. Io nel letto non ne ho. Yeah. ascoltare il prossimo, là. Ce la risentiamo, no? Anche io approfitto, mi siedo da qualche parte, se no mi sveglio, non è che faccio prima.